e dice grazie. Grazie a tutti voi, ai valsusini, a tutti gli italiani che vogliono l'Italia così come la vogliamo noi. Voglio fare un appello ai giornalisti che hanno programmato uno sciopero nei prossimi giorni. Non fate lo sciopero, fate sapere all'Italia cosa è successo a Venaus oggi. Lo devono sapere gli italiani. Un ultimo appello, dobbiamo continuare così, uniti si vince, grazie.